in differita dagli studi di Opencast. Va ora in onda la puntata numero 43 di Opencast Alpha. Conduce in studio il buon Tullio. Ma non era Beta? No, resta Alpha. Uffa. E il buon Fabio. Non è buono. Opencast Alpha. Love me baby. Visto che ci siamo persi per un attimo San Valentino. Ma non è oggi. No, è già passato. Che in differita va bene lo stesso. Sì, ma in differita tanto. È in differita. Oggi è San Valentino, vi ringraziamo e vi auguriamo. Cioè, praticamente siete voi che avete scaricato tardi la puntata nuova di Opencast Alpha. Il 14. E dove, siete voi che. E dov'è che sei andato? In bagno. E vabbè, devi proprio dirlo a tutti così. E vabbè, è lì che festeggio San Valentino io. Non lo voglio sapere. Così, tra me e te, non lo voglio sapere. Allora, io comunque mi dissocio dalla tua presentazione iniziale. Perché non ti è piaciuta? No, no. La no, vuoi no, rifare? No, no, la rifaccio io. La vuoi rifare? Allora, aspetta, aspetta, eh. Aspetta, aspetta. Perché la vuoi rifare? Facciamogliela rifare. Perché mi sembra giusto. In differita dal bagno dove non mi si piace, fece. Andiamo avanti. Opencast Alpha, puntata numero 43. Siamo qui con voi ancora una volta dopo un tot, anche oggi un po' di silenzio, diciamo. Sì, sì, sì, siamo, sì, sì. Ma perché stavamo lunghi. Raccogliendo le idee. E infatti siamo arrivati come al solito all'ultimo momento a cercare. No, che non si deve sapere. Non si deve sapere. Vabbè. Oggi vi parleremo di un po' di cose che accadono nel mondo dell'open source. Sì. La prima cosa di cui vogliamo discutere è del fatto che la... Il kernel. No, volevo discutere del fatto che la Gentoo che hai installato sul tuo portatile non è in grado di ripristinare correttamente Grub. Allora, non è la Gentoo che ho installato, è chi gestisce la Gentoo che ho installato. Resta il fatto che non riesce a reinstallare Grub come si deve. Ma no, perché ho scoperto che su Grub 2 non c'è root. Sì, ho capito, ma non devi scoprirlo tu. Grub teoricamente si autoconfigura. Vabbè, quando lo installi. Ma lei voleva autoconfigurarsi. Ho capito. Parliamo del kernel. Il kernel è notizia di questi giorni che è pronto il kernel 3.14 RC3. È un periodo di grandi uscite, direi. Sì, sì, sì, sì. Mi sono perso l'RC1, l'RC2, ma RC3. Ok. E novità, driver nuovi. Oh, questa per schede video, per ARM 64 bit che tu hai. Cioè le ho 3 o 4 a casa. Esatto. E 4 cagate di bug risolti. Basta. Così. Insomma. Sì. Però insomma, sapere di nuovi driver è sempre una bella notizia. Esatto. Specie nel campo delle schede video. Esatto. Visto le varie evoluzioni che ci sono. Dove? Dal punto di vista di SteamOS, dal punto di vista dei nuovi composer grafici tipo Wayland, insomma, queste cose qua. Hai sentito solo te. Perché tu non segui, non ti informi, non io leggi. Io sto lottando con la Mali 400, va questi bene? Questi sono problemi okay. tuoi invece. Io quello spero se non che... sbaglio, quello invece sì. non c'è il driver, neanche in no, quel kernel ma lì. Stanno lavorando... Sì, al... prima o poi, ti dici. Bastardo. No, vabbè, ma stai tranquillo che prima o poi funziona. Bastardo! Fidati. Vabbè, cioè, cosa ti devo dire? Allora, vabbè. Me la siete cercata, eh? Un po' sì. Poi ti spiego perché la tematica mi rimane ostile, ok? Va bene. A proposito di grandi release, così buttiamola là, se qualcuno volesse andare a vedere, è stata rilasciata... è stato rilasciato Enlightenment 1.9.0 RC0 pre-release preview. Praticamente di diverso c'è soltanto il cambio della versione, credo. Non è vero. No, ci sono tre grandi La prima me la ricordo. Allora, il testo fiammeggiante. Esatto. Testo fiammeggiante. Forse hanno risolto alcuni bugs e poi qualche altra cosina. Questo è quello che c'è scritto sul esatto. sito. Esatto. No, interessante. Domani proveremo. Come no? Va bene. Ma era così bello come ambiente grafico. Ti dirò, allora io... Era l'ambiente grafico definitivo. Per andare controcorrente io non sono mai riuscito a usare Enlightenment. Vabbè, ma tu usi Gnome 3. Ultimamente neanche quello sto usando. Però voglio dire, se vogliamo mettere... Tu eri l'unico fautore di Gnome 3. Ascolta questo, tu prendi... Nautilus, anche una delle ultime versioni. Ok. Poi prendi il file manager che c'è in Enlightenment. E beh, okay. Devo dire la verità, ci sono copiati. Cioè, sinceramente. Poi tu prendi un tema qualsiasi per Enlightenment, dimmi se non ti sanguinano gli occhi, perché è abbastanza inguardabile. No, va bene, diciamo, va bene. Ma anche Gnome 3. Sì, ma in maniera diversa. Vabbè, ti voglio dire solo una cosa. L'ultima versione di Gnome 3, il programmino, quello che gestisce i device, hanno disattivato l'opzione per gestire gli MD RAM RAID. Perché? Perché non ha mai funzionato bene. Meglio non averlo che averlo che funziona male, voglio dire. Ma io che ho un RAID... Tanto non potevi usarlo perché funzionava male. È vero, cioè, non l'ha mai visti, non è mai riuscito a gestirli. Vedi, ma per cui allora è meglio disattivarlo intanto che si sviluppa una versione che funziona. No, basta. Ah, basta. Basta. Sei sicuro? Cioè, basta. Se io adesso mando una patch per farne, me la rifiutano. A chi devo darla per essere rifiutata? Rifiutata. Grazie. Va bene. Torniamo a bomba un po', insomma, su queste notizie che abbiamo raccolto. Ma dimmi una cosa. Quelli di prima, chi erano? Quello che abbiamo ascoltato era Davy Crystal col brano Say You Love Me, tratto dalla... Davide Cristallo, salvami l'amore. Non proprio. Amore, salvami. No. Salvami il cristallo. No, è di che mi ami fondamentalmente, poi te lo spiego. Ah, Say You Love Me. Oh, tu non ascolti. Non è che non ascolto. È perché hai la cuffia che funziona solo il sinistro, ma l'orecchio sinistro ti è sordo. Ecco perché. E tu dici non si sente, non si sente. Va bene. Era un pezzo anche questo tratto da Jamendo. Troverete il link su www.gl-como.it e la pagina dedicata a questa puntata di Opencast Alpha. Tratto dalla compilation di San Valentino di Jamendo. Per cui oggi. Se oggi, giustamente. Se per l'anno prossimo. Allora! Perché comunque ormai siete in ritardo. Vabbè, forse ci stanno ascoltando mentre stanno facendo la loro cenetta romantica. Anche no. Ma... Oppure se volete regalare della musica anche per il compleanno della vostra o del vostro amato, che amata, si chiama Valentino. Esatto. Potete scaricare liberamente questa compilation da Jamendo. Ok. Vai pure avanti, facci altra sapere. Notizia. Forse non tutti sanno che. E c'è un perché. Allora, ultima versione di MySQL. È quel database che c'ha sempre tutti cosa. Da dire. Che esatto. Nessuno dice che lo usa, ma in realtà lo usano tutti. Lo usano tutti. Tutti si lamentano perché dicono: oh, ma non è relazionale. Come no? No. È l'unico database relazionale non relazionale. Non relazionale. Okay. Postgre è relazionale. Però MySQL lo usano tutti perché è più semplice, ma non è relazionale. Ma non lo dice nessuno che lo usa, questo è il bello. Dice: tu che database usi? No, io uso il... Io adesso uso dei file di testo. Tu pensa, io uso separati da punto e virgola a capo, due punti slash. Va bene? Cioè ogni file è separato da punto. No. Ogni record dentro è separato da punto e virgola a capo, due punti slash asterisco. Ma perché così è difficile che lo stesso separatore compaia nel testo. Esatto. A meno che tu non stai scrivendo un testo da inserire in nella pagina del suo sito web con scritto: questo database è separato da punto e virgola. Basta, capo, e lì va tutto in due pappa. Punti slash asterisco. Virgola. In questa maniera. Esatto. E fai vedere l'esempio e vai in pappa tutto. Esatto. Okay. Allora, aspetta, dov'ero? MySQL. Ultima versione. Dov'eri una... In bagno. Vabbè. Ultima versione, hanno inserito una cosa abbastanza carina. La gestione delle massime connessioni, massime ricerche, massimi upload di qua, di là, di su, di giù per i vari utenti. Già di default. Interessante, user quota. Esatto. Okay. E l'hanno inserito di default senza limiti. Sì, perché diciamo per retrocompatibilità, nel esatto. senso che non c'era, c'è esatto. se vuoi lo configuri, se no funziona come prima. Comunque, nel caso non doveste. Ma stiamo parlando trovarlo. Di MySQL o di MariaDB? MySQL. MySQL. Sì. E per Kona? No, neanche. Non ho la coda. No, va bene. No, per sapere i vari fork di MySQL cosa stavano facendo. E quello bisognerà valutarlo. Esatto. Aspetta che vado io a fare una ricerca. Bravo, vai a fare la ricerca. Intanto che tu fai la ricerca. No, così, no, così. No, in bagno. Sono in bagno. No. Intanto che tu aspetta un attimo però. Intanto che tu vai a fare la ricerca, io direi che possiamo far sentire il secondo brano musicale di questa puntata di Opencast Alpha. Va bene. Sempre... Comunque io mi dissocio. Per me noi siamo Opencast Z. Vabbè, poi ne discutiamo con calma. Sempre tratto da Jamendo, un altro brano open come da tradizione su Opencast. Loro sono i Down to Dusk. Questo brano è diciamo un pochino più brillante, un pochino più movimentato rispetto al precedente, ma diciamo che è meno San Valentiniano. Esatto, è più un brano. Sai quei brani? Quali? Quali? Un brano che tratta la tematica del pene e della vagina, che è un tema sempre attuale. Sempre. La conosci allora? È uno dei miei brani preferiti. Opencast Alpha, il podcast frizzante col giusto contenuto di adrenalina carbonica. Ti vedo pronto sul pezzo, ti trovo. Bene, bene, allora, stavamo parlando di un sacco di belle notizie, di più buone, meno buone, più cattive, meno cattive. Parliamo di telefoni? Parliamo di telefoni, è un argomento che è sempre affascinante. Nuovo device. Via. Ubuntu Phone. Oh, stanno ancora aspettando di vederne uno. Sono pronti, nel senso, stanno iniziando a costruirli proprio. Sì, cioè l'omino sì, che mette. Ma poi arriveranno. No, no, li costruiscono, li lasciano lì. Vabbè. Allora, si parla di telefoni quad core da Cortex A7 da 1,5 giga. Un giga di RAM, una tonnellata di roba. Ma per telefonare? Credo che facciano di tutto tranne telefonare. Sì, okay. E soprattutto è la possibilità di comprare su Amazon. Cosa? Qualunque cosa che ti pubblicizzano. Pensavo il telefono, cioè tu prendi il telefono e dal telefono hai la possibilità di comprare su Amazon il telefono. Esatto, sì. Te ne arrivano a casa 6. Perché ogni volta. Interessante. Stanno iniziando a prepararli, sono quasi pronti per la commercializzazione. C'è qualcuno che dice, ma a me... Io aspetterei. Una stronzata. E sai com'è? Io comunque, che ne dicano, trovo più ragionevole l'idea di Firefox OS. Sì. Nel senso, allora, è un noi arriviamo dal basso, piano piano. Da dietro. No, questo un po' mi fa paura. Quatti quatti. Tu non ci vedi e noi siamo lì. Ok, quatti quatti. Otti. Bravo. Allora, Firefox OS ha fatto una cosa bellissima, del tipo tu prendi un telefono stupido con un processore ignobile e lo usi per telefonare. Vedi? Cosa incredibile. Cioè, ce l'hai presente quel vecchio telefono della SIP, quello con le rotelle? Uguale. Quello che va in giro. Esatto. Ok. Perché si è rotto una gamba, allora va in giro con la rotella. Mi ricordano i gloriosi telefoni della Nokia. Sì, che i muletti, quelli telefonavano. Che telefonavano. Esatto. Ok. Il Firefox OS ha delle caratteristiche in più. Ha su già di default Firefox. Per esempio. Perché volevano mettere Chrome, ma stranamente no. E cacchio, è fluido, nel senso, cioè, senza avere un quad core, esatto, che fa il caffè. Cioè, stiamo parlando di un, per esempio, quello che ho in giro che ci dà l'internet per fare questa trasmissione bellissima. Non live, però, perché non esageriamo. È live. Ah, è live. Oggi è il 14. Giusto, ci state sentendo in live. Esatto. Se non ci state sentendo in live, è perché voi ci avete perso. Giusto, giusto. Ok? Giusto. Allora, quello lì è un telefono con un giga, un processore single core, 1 giga, 512 mega di RAM. Cioè, basta. Proprio una cosa... 5 megapixel di fotocamera. Giusto per... GPS, wireless, già, Bluetooth. Beh, già comunque... C'ha una 79 euro. Lascia fare. Cioè, così, a naso, quanto potrebbe costare un device con Ubuntu Phone? Beh, così a naso, uno sproposito... Io direi più. Di più. Molto. Tanto per fare un veloce paragone, la Gixphone, la società spagnola famosa per aver messo sul mercato i primissimi modelli di telefoni con Firefox OS, ha lanciato in questi giorni, o comunque deve lanciare, un telefono che avvia in dual boot Android o boot to Geco, ovvero sia Firefox OS fondamentalmente. È un processore della Madonna, con un tot di RAM e un tot di memoria. Un quad core, 1 giga di RAM. Esatto. Io traduco, eh. E costerà sui 230 euro. E uno in questo caso dice stica. Stica, mecco, parde. Esatto. Esatto. Qui si parla già di, diciamo, contatti con aziende telefoniche che potrebbero distribuire l'Ubuntu Phone, ma comunque il prezzo credo che sia a meno che poco meno, perché comunque i numeri saranno maggiori, sì, ci spera. Forse. Ma comunque, no, nel senso... ragazzi. Una caratteristica che poteva essere interessante dell'Ubuntu Phone era il fatto che le applicazioni dovrebbero teoricamente dovrebbero essere le stesse che girano sul desktop come sì. sul telefono. In realtà ni. Questa versione di Ubuntu ancora no, no. Cioè non ni, proprio no a questa versione di Ubuntu. Per cui no. No. Per cui si vedrà come andrà sì. a finire sì, sì, sì, intanto sì, sì, comunque è sicuro che le applicazioni per Firefox OS girano uguali su Firefox OS e sul desktop con un browser. A proposito di applicazioni per Firefox OS, sì. ne sto provando una in questi giorni, mm-hmm. funziona benissimo, sì. ma no. Cioè? Bicomo. Sai che penso di averla sentita, ma ne parliamo magari dopo, più avanti, verso la fine di questa puntata. Un'altra posso dirti un'altra cosa di quello che vuoi? Allora, in questo periodo la mia bellissima Gentoo è passata a Systemd, che è un sistema di gestore dei servizi. Tua bellissima Gentoo, tua bellissima, devi vedere che bei sfondi. Perché non mi si accende? Certo. Perché sennò vedresti degli perché sfondi capace, stupendi. Perché non è capace di installarsi il suo Groove. Vabbè. Comunque, Systemd è un sistema di gestore dei processi. Cosa fa? Avvia, spegne i processi al posto di init. Sì, ok? Quello che fa init lo fa Systemd. Ah, no, mi sto spiegando. È non è che init. Io. Cioè, solo perché tu lo usi vai già tranquillo. E funziona. Vai tranquillo, che su Arch Linux è già diverso tempo. Vai tranquillo. Vabbè, comunque, allora è notizia di questi giorni che Debian sta scegliendo. Ha scelto. Diciamo che ci sono buone probabilità che venga scelto. Ecco, Systemd. Systemd come sistema di default all'installazione. Poi, molto probabilmente poi sarà sostituibile. Ok, comunque Ubuntu invece aveva fatto una scelta un po' diversa. Tipo? Tipo ne aveva fatto uno. Strano lei. Perché di solito perché Ubuntu si sveglia la mattina e dice, dice oggi voglio fare il tasto starti. Così dice. E lui fa. Io aspetto solo starti. Che facciano un kernel completamente diverso da le zero. Credo tu. Vabbè, comunque ma sì, appena progettino è arrivata così. La notizia che Debian passava a Systemd, hanno detto quasi quasi. Perché cioè noi stiamo creando il nostro sistema di gestore dei servizi upstart. Ma upstart. Ma sì. potremmo sì, sì sì sì. Potremmo utilizzare anche Systemd così. Ma anche o è più c'è uno. Nel senso, ah. nel senso ce l'è presente quella cartella con scritto Upstarter? Ecco, io. L'abbiamo cancellata. Ah, ok. Per cui pare. È stato un errore. Perché era che... quasi pronto. Esatto. Diciamo che tu prendi Systemd e lo rinomini come Upstart. Era perfetto. Non è proprio proprio. Uguale, tu prendi tutte le parole con grep, no? Anzi, con sed. Sed. Sostituisci Systemd. Upstart. Sì. Uguale. Non sono sicuro. Ma comunque vabbè, vedremo come va a finire sta storia. C'è un po' di sì. movimento sì, nell'ambiente sì, sì. Tutti che si muovono. Io ho sentito tranne di questa... la mia distribuzione. Strano. Non si muove niente nella tua. È spenta. Appunto su questa storia del sistema di init di default su Debian si è discusso molto. Sì, hanno fatto anche una convocazione online come il Movimento 5 Stelle. Sì, ma io ho sentito gente sull'autobus discutere animatamente di questa ma no, cosa. Ma perché tu non capisci? Io quell'altro. Chissà sì, Elena, sì, quante sì. storie. No, no, io pare che poi non sia stato fatto, ma pare che stessero per fare una puntata speciale su Rai 3 di un chi l'ha svisto? Sì, no, di report. Report esatto, apposta solo su questa questione. Beh. Poi per questioni tecniche non è potuta andare in onda, ma pare che stessero preparando anche questa che cosa. Ha fatto il Festival di Sanremo. Esatto. Quel Festival di Sanremo che faranno perché siccome è 14 febbraio faranno. Io ti dirò per me la prima serata due cercano di buttarsi di sotto. Per esempio. Io dico così. Succede non uno perché qualcosa. L'avevano già fatto esatto. uno con Pippo. Per me due. Due. Va due. Bene. Vedremo. Vedremo. Se chi vivrà. Se succede. Se succede. Ok. Voi che ci state ascoltando probabilmente è già succeduto. Facciate mandateci un messaggio. Un messaggio predatato. Predatato. Così ci arriva adesso. Sul www. Aspetta. Mi è arrivata un'email. la prima sera due tentano di buttarsi da... visto che succede, è arrivata questa email predatata. Allora, in quanti siamo qua? In due. E quindi? E se dobbiamo farlo avvenire tutto torna. Comunque, questa cosa è una cosa che non tutti sanno delle email. Se tu nel campo data di invio se sei metti bastardo. Una data precedente, la mail arriva alla data precedente. Eh sì, però cioè, vabbè. Poi dicono che il viaggio nel tempo non è possibile. È sempre stato esistente, cioè, e io l'ho sempre fatto. Quando... Quante pubblicità ti arrivano datate 1970? Ma infatti mi arrivano proprio con dei tizi con capelli assurdi. Ma io quando faccio qualcosa che poi mi pento di quello che faccio, mi mando una mail, mi dico non fare tal cosa. Però il problema è che vengono tutte filtrate dal filtro di spam. Strano, eh? E per cui non riesco mai ad avvisarmi di queste cose. Sì, va bene. E dopo questa parentesi di fantascienza, abbiamo detto delle cose. Fare un piccolo stacco musicale. Quando torniamo, di cosa vuoi parlare? Direi che ci sarà i 16 posti dove non pensereste di trovare Linux. Mi sembra una grande idea. Noi vi lasciamo con Less for More in My Head. Less for More in My Head. Diciamo le cose, non è colpa mia. Che cosa? No, la scelta di questa canzone è bella, tu non capisci niente. Perché quando le scegli tu invece con i tuoi criteri di scelta, questa avrà più una sono grosse più le scegli. Questa avrà una copertina schifosa. Esattamente. Non ci saranno donne né niente, né parti di donne. Parti di donne? Vabbè, non è importante piede, tutta la donna. Una spalla, un orecchio. Ma scusa, ascolti le tematiche e non capisci che... ma io faccio finta di non capire. Sì. Allora, vi abbiamo lasciato prima della pausa musicale con la promessa di presentarvi 16 posti dove non pensereste, invece c'è il Linux. Ah, quindi c'è la rubrichetta 16 posti? 16 posti dove? Va bene. 16 posti dove non penserete, ma invece vi capita di trovare Linux. Ma non sempre. Conduce in studio il nostro buon Davide. Allora, iniziamo da... Che cazzo di base è? La musica non ti piace? Non ti piace uscina, mai niente, madonna che carattere. Cioè io non lo so. Vai. Oh, adesso mi sento a mio agio. Allora, i 16 posti più strani dove potete trovare il Linux. Pentola a cottura a bassa temperatura. Dunque, scusa, è una pentola elettrica. Esatto. Che scalda che poco. Che scalda poco. Per fare cotture lunghe. Lunghe, okay. Quindi 15, però, 16, 12, 12 8 minuti, ore. Giorni. Cioè, quello che mi chiedo io è che essendo controllata da Linux avrà qualche funzione speciale, che ne so, si connette al www per dirmi che non so. No. Però regola bene la temperatura, che è bassa. È bassa, per cui, per cui deve essere sì. È proprio precisa. Precisa. Sì. È una cagata pazzesca. Vabbè, no, perché? No, dico. Comunque, allora, pentola a cottura letta. Pentola elettrica a cottura letta. Poi, un robot. Brutto, Brutto, ma brutto, bello. Ma bello a livello di nerd, okay. Ma è brutto. E gira Linux. Ci gira Linux, certo, perché comunque sono tutti prototipi, per cui capirei cosa ci mettono. Capisco. Ecco. Il sensore di tsunami subacqueo. Subacqueo. Ok. Sono degli attrezzini che rimangono galleggianti sotto il pelo dell'acqua per e si accorgono misurare se, le onde fondamentalmente. Se tsunamano. Esatto. Okay. E ma girano cosa? Linux. Inviare dati a casa. Ma attenzione, La Barbie. E voi direte, perché la Barbie gira Linux? Non no. La Barbie in sé, ma Barbie sviluppatrice software. Perché c'è anche Barbie sviluppatrice software che mica... viene corredata da occhiali, borsetta, quella sempre comunque, il computer, cubicolo con microscrivania, microcomputer e diversi poster e robe appese, esatto, al cubicolo. Uno di questi poster è un Similtux. È un Similtux ubriaco. Mi ricorda un po', sai quella di... L'hai mai visto Criminal Minds? Sì. La tizia al computer. Sì. C'ha gli stessi occhiali rosa. Esatto. Questa però è un po' più magra. Sì, ma secondo me è l'inquadratura. Sì. Poi, vabbè, i computer, quelli degli aerei, quelli da dietro schienale. Esatto, infotainment, come si chiamano? Quelli che fanno informazione e intrattenimento. Esatto, entertainment system. Esatto, sono incastonati nel poggiatesta del sedile di fronte. Nel di fronte. Esatto, e uno tranquillo si guarda un film e gira il Linux. Oppure, per esempio... questa è una delle cose più belle. È l'apriporta comandato ad abbaio. Nel senso, vostra moglie si chiude fuori casa? Non ci sono più problemi. Basta insegnarle ad abbaiare. Il che è un po' dire. Più complicato. Ok, serve per non lasciar chiuso fuori il cane. Il cane sa che non deve... la moglie. No, il cane. Il cane sa che deve abbaiare, tipo bau bau. Bau. Bau, bau, bau, bau. Bau. Io credo che il cane rimanga fuori. Secondo me. Okay. Allora, Rufus. Allora, seguimi. Ascolta. Seguimi, Allora, non fare come ieri che poi sei rimasto fuori, hai fatto la pipì. Allora, niente palla. Non si gioca adesso. Non ti arrabbiare. Dopo giochiamo, va bene? Va bene. Allora, bau. Bau bau. Allora, bau. Pausa. Bau bau. No. Allora. No, allora, la pausa deve essere... No, no, no, no, no, no, no, così no, chiami la polizia. Cribio. Allora, bau. Pausa di due bau, poi bau bau, ok? Così si apre la porta. Prova. No, no, no, no. No, così hai chiamato il vicino. Va bene, passiamo oltre. Allora, un negozio di caffè. Ok, una catena di caffetterie in Canada che utilizza dei monitor per mostrare le classiche schermate dei menu. Questi monitor sono su Linux. Sono, esatto, diciamo, controllati da un sistema che gira Linux. Una stazione di servizio a caso, random. Ok. Okay. Esatto, c'è l'immagine. E voi non potete vedere la foto. Come no? Aspetta, fagli vedere la foto. Aspetta, facciamo vedere la foto. Attenzione, foto. Ok. Visto? Avete visto come questo. Era Grub, eh? Cioè, si vedeva. Sì, sì. Vuoi rivederla? Prova. Rivediamola. Adesso non potete dire che non si vista. Non è possibile. Proprio Grub. C'è Grub esattamente in questa schermata. Ok. La Nord Corea. La Nord Corea ha sviluppato la sua autarchica distribuzione di Linux. No, no, no, no. La Nord Corea gira Linux. Gira Linux. Ok. Cioè non ci sono persone, ci sono solo pinguini. Ah, ok. Va ok. Bene. Perché vabbè, se no non comunque, si capisce, sì. Nonostante le cavolate, si parla di una distribuzione sviluppata internamente alla Nord Corea per i nordcoreani per collegarsi alla rete della Nord Corea, scritto in nordcoreano. Allora, e gira Linux. Allora, che però se non tu vuoi Nord. Dire delle cose non esatte, dille. Ma in realtà la Nord Corea gira Linux. Ok? La Nord Corea gira Linux. Corea. Andiamo avanti. La stazione spaziale internazionale. Internazionale. The International Space Station. Ne avevamo già parlato come sui... Ma è quella di carburanti di prima? No, quella è un'altra stazione. Abbiamo già parlato come nello spazio siano stati i portatili della stazione, i computer della stazione spaziale siano passati a Linux per sicurezza. Spazio. Ultima. Mi devi avvisare prima, scusa. Spazio. Ultima frontiera. Questo era un altro. No, è un altro. Ultima frontiera. Shutdown. Meno R. Va bene. Un microcontrollore 8 bit. Esatto. Si parla di un tizio. Perché farne con 7? 8. Un tizio ha fatto girare Linux su un microprocessore 8 bit. Per cui immaginatevi uno Z80. Quasi Arduino. Okay. Sì. Un 8086 addirittura. Okay. Comunque un microprocessore 8 bit è riuscito a far girare Linux. Adesso è praticamente stato assunto. Cazzo sto dicendo? Non lo so. Va bene. È stato una diciamo che è stato arrestato. È stato arrestato, no. Ha guadagnato lo status di nerd. Okay. Di nerd proprio quello più pregiato, nerdoso e anche un po' annoiato per fare un lavoro del genere. Adesso manca solo che faccia girare Linux su quella patata e siamo a posto. La non calcolatrice. Quella patata. Ma perché lì non c'era avanti. Linux? No. Comunque, la calcolatrice. Ci sono alcune calcolatrici programmabili su cui gira il Linux. Alla fine sono Texas sono Intro, computer, sì, per sono cui... ARM, per cui perché no? Fondamentalmente. Diciamolo. Va bene. Ok, questo è questo diciamo, un po' più difficile. Allora, eh? Questa te la spiego a parole. Allora, è un coso, okay. A forma di così allungata. Con su dei cosi che praticamente galli. Di che colore è? Quel colore tipo quel coso, color giallo. Che colore? Ah, scusa. È una banana. No, si tratta di di una specie di surf, di tavola da surf che autonomamente viaggia per l'oceano raccogliendo dati e rinviandoli alla stazione di controllo sulla Terra. Con dei pannelli SpongeBob, con dei pannelli solari si autoalimenta e gira lì. Ah, quello che studiano le maree, studiano le onde, esatto, studiano un po' di cose. Studiano matematica, fisica, matematica, geografia. Non lo so, perché non sono bravissimi in quelle materie lì. Questo il è particolare. Ciambi. Chi si ricorda del Ciambi? No. Nessuno si ricorda del Ciambi, okay. È stato abbastanza un flop. Si tratta di una specie di radiosveglia barra tablet del primordiale. Era un aggeggio. Tu immagini una radiosveglia con uno schermo touch, okay, costruito con il corpo di questo aggeggio è morbido. Ok. Doveva essere proprio così morbido. È un cuscino. Non sono morbido, cuscino. Sono morbidoso. Diversamente magro. No. Sono proprio ciccia bomba. E lo schermo appunto touch girava una versione di Linux, poteva, non so, farti sentire le radio via internet piuttosto che vedere che tempo che fa invece di aprire la finestra. Posso dirlo? Sì. Una cagata pazzesca. E infatti proprio una cagata successo. Ma attenzione, una mungitrice automatica. Di donne? No, di mucche, scusami. Scusa. Perché? E ho usato la parola mucche perché non so se altrimenti. Va bene. Si tratta di uno di questi grossi macchinari che automaticamente mungono le mucche per estrarre il latte. Giusto. Una patata. Ah, ce l'ha fatta. No, va bene. Siamo arrivati in fondo alla nostra bellissima rubrichetta del guarda su che cosa oggigiorno fanno girare Linux. Scusami, devo. Guarda oggigiorno su cosa fanno girare Linux è stato presentato da Davide. Mica Boba o Micio. Per dire. Mi piace questa musichetta qua, dovremmo usarla più spesso. No. Va bene. E invece, ridendo e scherzando, si è fatta una certa. Siamo arrivati all'angolo che tutti stavano aspettando. Perché questo? No, a parte che ne abbiamo due di angoli ancora. Ah sì? Sì. Davvero? Sì. Ti ricordo che abbiamo un e poi è un aereo. Allora vogliamo parlare prima di questo. Giusto. Facciamo questo mashup tra Opencast e altri programmi e parliamo del progetto La vita in diretta. La vita in diretta, esatto. E apriamo questa rubrichetta nuova per Opencast con un titolo che vado ora a riassumere grazie a questa bellissima sigletta. Ho già sentito la seconda. Va ora in onda la rubrichetta Progetti assurdi che abbiamo trovato sull'internet noi, così voi non dovete andare a cercare perché tanto ormai li abbiamo già trovati noi. Progetti che se volete potete spendere dei soldi per aiutare nello sviluppo, perché magari avete dei soldi che vi avanzano e invece di andare al cinema volete spenderli in questi progetti. Progetti che meritano se aveste del tempo per spenderci dei soldi. Conduce in studio Davide. Allora, io non è che voglio dirti che è una cagata pazzesca questa sigletta, però non potete dare dei soldi. Oh cacchio, hai scelto un progetto che è già finito. Ma perché ho deciso, potremmo riaprirlo. Va bene, il progetto in questione si intitola Maker Plane. Versione 1.0, che già qui per me, nel senso, dovevamo fare 0.9, che forse erano un po' più tranquilli, non pensavano a una versione stabile, soprattutto perché è un aereo, si tratta di un monoposto. Sì, è un monopattino più che un monoposto, perché ha le stesse possibilità di volare di un monopattino. Ma non è detto, il problema progetto... è se ti fidi a volarci. Sì. Allora, è il progetto di questo aereo da costruirti a casa, cioè esatto, tu prendi questo progetto. Scatola e poi di montaggio. Esatto. No, progetto. Stampi. Sì, perché alcuni componenti di questo aereo sono stampabili con una stampante 3D. Fammi pensare. No. No, vabbè, ma non tutti, Solo quelli meno strutturalmente delicati. Dunque è un aereo monoposto. Fammi pensare a quali elementi strutturalmente non delicati. Vediamo, lo specchietto retrovisore. Sei pazzo? Pericolosissimo non averlo. Per dire. Se ti rompe. Non vedi che ti superano? Quanto prendi la faccia questo coso qui? Se va a 3 all'ora è tanto. Cioè ti supera la nonnina con la scopa. Ti supera sul pullman che è andata a fare la sua spesa. Sì. Passavi e ti dice: allora si muova che qua c'è gente che deve scendere. Comunque, come progetto non sembra brutto, ci sono dei disegni. Non sembra, però. Ci sono dei disegni 3D. ti dice anche dove mettere il sedile. Ah, ok, poi può tornare utile. Mica babà, micio. Comunque, questo progetto cercava di raccogliere dei fondi, perché sì, purtroppo circa $75,000. $75,000, sì. Ed effettivamente, dopo un mese, sì, ha raccolto 8,700. Ah, 8,700. Te dimmi, chi sono sti scemi? Che? Senza un nostro parere, che hanno investito tutti questi soldi. Esatto, perché in realtà da adesso possibile avrebbero raggiunto veramente come il successo. Minimo 2 o 3 milioni, ma in così, 2 ore. Esatto. Calcola che siamo in diretta. Per dire. Per esempio. Comunque, se volete, c'è anche il progetto della pedaliera. Quindi non è che ti dicono, io ti faccio l'aereo, ma lui vola, ma tu non lo sempre controlli. Dritto. C'è anche, c'è la pedaliera. Anche la pedaliera. Che non si sa che cosa faccia, però... Pedala. C'è. Pedala. Infatti è... Perché secondo te non c'è il motore, non c'è il motore. Pedali. Non credo. No, perché no, no, sarà mica il motore quel coso lì. Cosa usa? Quello di una lavatrice. Vabbè, loro comunque dicono che... Allora, ci vogliono circa 500 ore per realizzarlo. Beh, già meno di un cui... puzzle. Sì, ma che cacchio di puzzle fai? Quelli difficili, 6 pezzi. Oh, sì, però è tutto pezzi di un colore unico. Un unico? Sì, sì, sì. Tinta il... unita. Sono puzzle di 6 pezzi, ma tinta unita. Sono son facili. Deve difficilissimo. Esatto. Comunque, il motore consigliato è da 80 a 130 cavalli. Quindi del tipo, tu accendi il motore e la struttura si gira su se stessa. Ok. Diventa un elicottero. Posso fare una domanda? Aspetta, eh. Allora, questo aspetta fatto... che mi metto in... Okay. Vai. Questi hanno fatto il progetto. Sì. Volevano, sì, raccogliere dei fondi. Okay. Sì. Ma un prototipo? O volevano dei fondi per realizzare il prototipo? No. Nel senso, uno funzionante l'hanno fatto? No. Va bene. Direi che possiamo anche chiuderla qui. Vabbè, ma ci sono dei numeri qua, eh. Sì. Sì. Che davano i numeri, l'abbiamo capito. Allora, 40 galloni di serbatoio. Che uno dice, vabbè, ma perché devo portarmi dietro il pollaio per andare in aereo? Allora, 600 kg pesava. Spesava. Pesava. Poi ci ha messo il motore. Poi chi può dirlo? Ok. Basta, poi cosa basta, che ti numeri sono? Va bene. Direi che possiamo chiuderla qua, va. Così. Sì, sì, direi di sì. Peccato, perché volevo investirci. Eh sì. Vabbè. Oppure ci avrebbe investito lei. Esatto. Al primo volo. Spostatevi di lì. Per piacere, spostati che arriva l'aereo. Ma comunque no, ma secondo me dei progetti interessanti si possono anche trovare, se andiamo a cercare. Direi che potremmo anche ritornarci magari un'altra puntata. Del tipo che vuoi che chiamo questi qui dell'aereo per vedere se veramente riaprono il progetto. Io per li dire chiamo, eh. No. No, no, no, li chiamo. Aspetta, li chiamo. Può essere un'idea, eh. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Io telefonavo per un'informazione. 40 galloni, esattamente. In galline, quanto in fa? Galline, o almeno in tacchini, perché mi avanzano, cioè ho uno struzzo. Guardi, 40 galloni, grosso modo, sono 32 tacchini. Vabbè. Esatto. Vabbè, vabbè. Struzzi. Possiamo chiuderlo? Sì, sì, scusa. Possiamo chiuderlo. Mamma possiamo mia passare all'ultima rubrica di questa puntata di Opencast numero 43? La più importante. La più importante è quella che stavano aspettando tutti. Tutti. Purtroppo il nostro speaker di fiducia ancora è esiliato. È un anno che... ormai è esiliato. Si chiama Latitante. Si chiama Latitante, esatto. Perché lati ha tanti di nome lati e tante, esatto, cognome. Va bene. Per cui diamo così sfogo, sì, a questa nostra curiosità con sfogo è la parola giusta. Sfogo con nel senso di una, sì, roba, un eritema. Un eritema. Diamo quindi eritema alla nostra curiosità con con la dai. Vabbè, eritemiamoci. Eritemiamoci con l'angolo di DistroWatch. Per l'angolo di DistroWatch quest'oggi conduce in studio Tullio. Ma faccio tutto io? Sì, conduci sempre in studio, cosa ti devo dire? Poi non è vero, perché una volta conduce Tullio, una volta conduce Davide, cosa vuoi? No, Davide? Di solito all'inizio conduce Tullio, poi alla condotto fine Davide. Esatto. Vabbè, allora DistroWatch, questo Watch sito un po' di ambiguo. Parte. Ambiguo? Sì, è ambiguo, perché non è giusto. Cosa ti vuol dire? Te lo sei cercato. È stata facile, eh? Va bene. Allora, partiamo dal decimo posto della classifica delle distro, redatta da DistroVoce, che come si sa è secondo noi e secondo molti è redatta un po' così, a naso. Ad cazzum. Esatto. Ok. Elementary. Decimo posto. Sì. Elementary. Direi. Una distro che parla di... Ma elementari. No, io conoscevo un telefilm che si intitolava Elementary. Elementary OS. Ah, ok, non c'entra niente col telefilm, quello di... No. No. Va bene, al decimo posto, una, Elementary. È una distribuzione per scuole elementari. Ah, ok. Ci credi pure? No, non lo so, io mi fido. Scusa, apri il link e guarda. Che figure mi fai fare, ma dai! C'ho altre cose da sei fare. Sei veramente, cioè, inutile. Avessi detto la posizione numero uno, è la numero 10, ma bene, chi se ne frega? Numero 10. Numero 9. Non c'è. Come non c'è? Come fa? Non c'è. Ma sì che c'è, c'è scritta lì. Mangiai. Ah, mangiaro Linux. Mangiai. Mangiaro. Ah, che comunque allora è plurale. Plurale. Che comunque è in discesa. È in discesa, è in discesa. Ma di brutto, eh. Perde punti. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. No. Numero 8. Numero 8. Arcatelo. Arc Linux, una distro che guadagna posizioni. Ma non ci piace. A noi sì. PC Linux OS, posizione numero 7. Anche questa in salita, una distro che sinceramente non abbiamo mai provato. Che uno si chiede perché. Basata su RPM, se non vado errato. È grave come cosa. Ma alcuni dicono che si trovano bene. Vabbè, OpenSUSE. Al sesto posto. È difficile. È più difficile dire di trovarsi bene. Non lo so, però io non ce l'ho mai fatto. Fedora. Al quinto posto, sempre in salita, Fedora. Fedora. La versione Red Hat di sviluppo, nel senso la versione Red Hat con i pacchetti molto più aggiornati, che uno dice quasi quasi me le installo. Ok, carina. Molti si trovano. Sì, se ti piacciono gli RPM. Se ti trovi bene a lavorare con gli RPM, che va bene, una questione giusta. Sì, sì, sì, sì, sì. Al quarto posto in salita, Mageia, che è la cugina di Mangiaro, che non ha mangiato. Che ha qualcosa a che fare con Mandriva. Sì, ma cosa ce ne frega noi? No, cioè, per dire. Al quarto posto, fosse al primo, niente. Al terzo posto stabile, Debian. Stabile. Debian. Terzo posto. Devo dire la verità, è stata un po' più sopra. È stata un po' più sopra, specialmente quando è stata appena rilasciata la versione 7. Sì, diciamo. Allora, fra il terzo e il secondo posto ci sono 80 punti di differenza. Quindi, per cui è abbastanza al fulmicotone. Sì, sì, sì, sì, sì. È di misura. Esatto. Una misura, ma sarà una così. Terza. Esatto. Sì, sì, sì, sì. Abbondante. Bello. Complimenti. Coppa C. Esatto. Secondo posto. Al secondo posto Ubuntu. Ubuntu. Ogni tanto tornano. Chissà perché, però tornano. Va bene. Diciamo che con queste ultime... Vai. Con queste ultime aggiornamenti menate varie di Ubuntu, uno dice Ubuntu, quasi quasi Ubuntu dalla finestra. E uno dice a che Ubuntu, a che punto sta? Abbastanza abbuntato. Abbuntato. Piacere. Va se bene. Potete evitare. Al primo posto, primo coposto della classifica di DistroWatch, Gentoo. No. Come no? Mint. No, l'ho letto io. No, tu leggi sbagliato. C'è Mint come già l'ultima volta e la volta prima dell'ultima. E anche quella precedente probabilmente. È una distro che ha guadagnato grossi favori e continua a mantenerli. Adesso arriviamo all'angolo che un po' tutti stavano aspettando realmente, ovvero Sio. Questa settimana a che posizione è scivolata Gentoo? A parte allora, che è stabilissima, Scorriamo un po' la lista. Dunque, abbiamo detto al decimo posto c'è quella distribuzione Elementary, esatto. FreeBSD pensa all'undicesimo posto, e pensa. CentOS al dodicesimo posto. Tu pensa Puppi al tredicesimo posto, cioè neanche andando lontano. Va bene. L'Ubuntu, sì. C'è Ubuntu Neon però che sta salendo. Guardalo. Tu pensa, vedo. Slackware al 18, Ubuntu Gnome al 25, Kubuntu, Sapayon, tu pensa. PC BSD al 31esimo, in salita. pensa. Sì, Peppermint, Hunter Ghost, 38esimo posto, stabile, Gentoo. Ma perché noi non ci vogliamo far notare. Sì, noi, profilo basso. Noi piano piano arriviamo dal dietro. Sì, questa cosa mi fa un po' paura. Va bene, direi che potremmo anche chiuderla qui. Sì. Se non vuoi aggiungere niente sul fatto che Gentoo è al 38esimo posto, che non aggiorna correttamente Grab, eccetera, eccetera. Non è lei che non aggiorna bene Grab, no. Sono io. Certo, certo, diciamo così. Diciamo che sei tu. Non è che c'è Gentoo aggiornami grab.sh, Grosso modo sì. Grosso modo c'è Grab install e fa lui. Comunque, va bene. E con questo chiudiamo questo striminzito angolo di DistroWatch. Cioè, abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Sì, ma senza dilungarci. Che dire, per dire. Un momento di silenzio per pensare perché al fatto che stiamo arrivando in fondo a questa puntata. Voi se siete con la vostra donna e state ancora mangiando, a una certa dovreste smettere, cioè... Dai, va bene, se siete con la vostra donna e state mangiando e ci state ascoltando, c'è solo una cosa che possiamo dirvi. Allora ve la siete cercata, eh? Perché è così. Ma siamo in diretta allora. Siamo sempre in diretta e andiamo a chiudere con un brano di reg italiano. Loro belli vengono questo da Padova. Questo è l'unico che ho scelto io. Sono i Men in Root. Il brano si intitola 23 maggio e... Allora, faccio un brano che non mi ricordo un accordo di questa canzone. Ok, l'ho trovato, era un si bemolle. Che lo guardo, penso a te, penso a me, ai nostri sogni e progetti, alle tende che non volevi. Ogni volta che lo guardo, penso a te, penso a noi, e tradimenti al tuo essere alfa, ma innamorato come più nessuno. Quel ponte giallo, Londra, Amsterdam, Siviglia, mia nonna e tua madre, e ora tu, marito e padre. Sono strafelice per te, e poi mi spiace non potertelo raccontare. Con questa foto nasconderò quello che volevo dimenticare. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it. Ogni volta che lo guardo, penso a te, penso a me, ai nostri sogni e progetti, ed è rimasto un anello solo. Sono strafelice per te, e poi mi spiace non potertelo raccontare. Con questa foto nasconderò quello che volevo dimenticare. Sono strafelice per te, e 8 anni da quel giorno sono passato.